Quando passa Francesca Maria, quale strage di cuori ti fa? Ogni giovane lungo la via, fa gli occhioni si mette a cantar. Guarda che bionda, hey! Ma come tonda, hey! Fa come l'onda, sì come l'onda del mar che ti fa dondolar. Quando passa Francesca Maria, pure il vigile resta a guardar. E il semaforo in mezzo alla via, segna rosso e non lascia passar. Sotto il portico della stazione, che confusione vedi ogni dì. Con un treno ad un solo vagone, giunge un donnone grosso così. Ha sul petto quel tal Mazzolin, che viene dalla montagna. E cercando il suo bel Morettin, sen va per la città. Quando passa Francesca Maria, quale strage di cuori ti fa? Ogni giovane lungo la via fa gli occhioni e si mette a cantar. Guarda che bionda, hey! Ma come tonda, hey! Fa come l'onda, sì come l'onda del mar che ti fa dondolar. Quando passa Francesca Maria, pure il vigile resta a guardar. E il semaforo in mezzo alla via, segna rosso e non lascia passar. Ma girando Francesca Maria, la giusta via non sa trovar. Ed in mezzo alla gran confusione, qualche spintone la fa gridar. Non sciupatemi quel Mazzolin, che vien dalla montagna. Devo darlo al mio bel Morettin, lasciatemi passar. Quando passa Francesca Maria, quale strage di cuori ti fa? Ogni giovane lungo la via, fa gli occhioni si mette a cantar. Guarda che bionda, hey! Ma come tonda, hey! Fa come l'onda, sì come l'onda del mar che ti fa dondolar. Quando passa Francesca Maria, pure il vigile resta a guardar. E il semaforo in mezzo alla via, segna rosso e non lascia passare.